24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese. I bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo elettori, il bagno alla turca. Il sole splende forte. Piazza plebiscito, mi sento rilassato, il corteo è finito. E dobbiamo prendere anche le botte, noi che paghiamo, noi che lavoriamo, dobbiamo essere anche picchiati da chi? Da altre persone che per vivere debbono lavorare. Ma che diano gli ordini di colpire quello che c'è da colpire. Cazzo, in un paese di ladri, di gente che evade, di corruzione, se la vengono a prendere con gli unici onesti, ma dove cazzo siamo messi? Basta, retaggio del passato, arriva l'avvocato, sarei presto lì. E il governo deve rispondere adesso. Siamo noi che paghiamo le tasse, paghiamo questi e paghiamo quelli che sono là. Basta! Vedete al ministero Landini. Certo, ma anche il governo. Dico una parola alla presidenza del Consiglio, anziché fare il slogan del cazzo, dico una parola di quello che sta succedendo. Che si vergognino, ci hanno da chiedere scusa ai lavoratori. Scusa ci hanno da chiedere. Rappresaglia. Questo paese esiste perché c'è la gente che lavora. Dovrebbero chiedere scusa alla gente, capisci? Altro che palle, Leopolde e cazzate varie. Basta, basta slogan, basta. Hanno rotto le scatole, questo è il problema. Rappresaglia. Il bisogno di piangere costantemente unito alla rabbia. E questo è Landini, Maurizio Landini, ieri leader della FIOM. Appena sono partiti i manganelli, microfoni vicino alla bocca, e l'avete sentito. Qua sapete che 24 mattino un po' si scherza e tutto, ma qua c'è poco da scherzare, c'è poco da scherzare, cari ascoltatori. Quello che è successo ieri non è una bella cosa, comunque la pensiate, da qualunque parte la vediate, non è una bella cosa. Ci sono persone che manifestano per il posto di lavoro e che è successo? Poi adesso vai a capire la ricostruzione. Oggi il ministro Alfano parlerà, oggi noi avremo il vice ministro all'interno Bubbico alle 8.45, faremo alcune domande, ma ci saranno ricostruzioni, poi si sa, nella piazza basta una scintilla in quei momenti di tensione e poi vai a capire chi ha cominciato, perché, per come. Però la Camusso dice al Fatto Quotidiano: c'erano degli ordini, evidentemente. Non voglio fare la dietrologa, no. Però c'erano degli ordini, dice la Camusso. E vabbè, chissà se c'erano degli ordini. Renzi invece pare ieri a sera anche al Viminale, Alfano abbia detto: forse abbiamo equivocato tutto anche questa cosa, volevano occupare la stazione Termini, ma i manifestanti dicono ma non è vero, ma nessuno ha mai detto neanche per scherzo occupiamo la stazione Termini. Il dato di fatto è che è una brutta cosa, questo si sa. Allora, le 6:33 minuti, questa è 24 mattino, saluto Lorenzo Nespoli in redazione. Saluto Peter Bescapè, il nostro alpino è tornato saldo in regia. E apriamo il Parlamento allora, che così facciamo due chiacchiere a partire. Adesso vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo per caffè. A partire dalla rabbia di Maurizio Landini. Intanto voglio salutare i miei ospiti di oggi. Ritrovo con piacere Angelo Perrino, direttore di affariitaliani.it. Buongiorno direttorissimo. Buongiorno a voi. Eccoci. E voi voglio salutare la futura direttorissima dell'Unità, si sa, la Chiara Geloni. Buongiorno. Che prima di diventare direttrice dell'Unità fa le cene per sancire le scissioni all'interno del PD. Quali cene? No. Ma sì, dai, hai invitato a cena, l'hanno scritto tutti, no. Bersani, Cuperlo, Fassina, da Torre. No, c'è stato un seminario per preparare... Un seminario, che ti fai suora. Un seminario per studiare sul tema dell'euro, sì. Organizzato dalla rivista Idee Contro Luce, alla quale faccio volentieri pubblicità, che trovate su internet. Abbiamo invitato tante persone, fra cui anche Bersani. E guarda caso sono arrivati tutti a parlare. C'erano due professori professore di economia che parlava di euro, non si mangiava, non era sera, quindi non era assolutamente una cena, era un pomeriggio. Vabbè, le scissioni si fanno anche al pomeriggio adesso, non è che le scissioni si fanno però solo dalle 9 in poi. Le fai parlando di euro con un professore di economia, poi tutto può essere, insomma. Vabbè, ma dai, magari non si ascoltava il professore, vabbè, tanto se anche ci fosse una cena per la scissione non verresti mica a dirlo qui a 24 mattino. Non verrei invitata, guarda. No, non verrei invitata a 24 mattino, sia la cena dici no, vabbè. No. Comunque ieri direttore Perrino, ieri è successo un gran casino, cioè comunque adesso ci saranno le mille ricostruzioni, contro deduzioni, contro ricostruzioni, il dato di fatto che c'erano degli operai che manifestavano e sono presi alcuni delle manganellate in testa, questo è un fatto indiscutibile. Ora andiamo a capire che succederà, che come la leggi tu questo episodio di ieri? Ma come tu hai detto è una brutta cosa, non dovrebbe accadere che in un paese civile il diritto di manifestare poi sfoci in una vicenda così drammatica. Fortunatamente l'esito poi è rimasto contenuto, ma si sa che in piazza poi può succedere anche di peggio e non deve succedere. La situazione sociale conosciamo, è drammatica, dobbiamo tutti mantenere i nervi saldi, ma in questo tutti io ci metto anche il sindacato, perché sì, ma sì, senza dubbio, il fiammifero acceso può partire da qualsiasi luogo, possono esserci le provocazioni, possono esserci le intenzioni di provocare incidenti per usarli a fini politici, quindi io credo che la temperatura vada abbassata da entrambi i fronti. Questo chiama in causa soprattutto il Partito Democratico, perché è al loro interno che si sta giocando questo. Questa, per esempio, guarda, è la sensazione, se uno legge oggi Repubblica, poi lo leggeremo in rassegna stampa, pagina 2, Renzi che pare dica qualcuno qua vuol farci passare, quando dice qualcuno vuol dire la CGIL, traduco per tutti, qualcuno vuol farci passare qui per picchiatori di operai, per poi in qualche modo darci una spallata. Cara Geloni, brutta roba ieri, però non è il rischio che sia più brutto adesso tutte le possibili strumentalizzazioni o letture politiche, o no? Insomma, adesso strumentalizzazione, bisognerà pur capire quello che è successo e valutarlo, non solo, io insomma penso, non solo cercando dei capri espiatori a cui dare la colpa per un singolo episodio, questo è un po' il compito della politica, no? Ma noi dobbiamo avere una lettura di questo paese all'altezza del fatto che stiamo vivendo una fase di grandi tensioni sociali che non sono figlie di un'intervista sopra le righe o di un comizio antipatico, sono figlie di una situazione sociale grave, drammatica per moltissime persone. Quindi in questo contesto bisogna stare attenti tutti e ovviamente ognuno secondo le sue responsabilità deve stare attento. A chi ti riferisci? Qualche dichiarazione? Mi riferisco adesso, io poi lo leggerò l'articolo di Repubblica, sì. Ma certo la risposta non può essere ci vogliono fare passare per picchiatori. Ma sai, quelli sono operai. Quei retroscena che appaiono, che non si però capisce. Però intanto non picchiamo gli operai, che vedrai che sarà più difficile farti passare per un picchiatore di operai. Ecco, evitiamo, io ho sentito dire delle cose sul sindacato in questi giorni, sì. che capisco tipo una a caso, mi viene in mente una a caso. Non le avevo mai sentite neanche dire da Berlusconi, Sacconi e Tremonti. Non so, secondo me stai pensando tipo a Pina Picerno. Ma no, figurati, parlavo in generale. No, parlava in generale. Perrino parlava in generale. Vabbè, allora sono io sempre subdolamente a pensare male. Allora ce l'abbiamo, certo. Pina Picerno. Ieri era ad Agorà e ha detto questa cosa qui. E questa cosa simpatica sulle tessere false, ma ha detto no, ma potrei dirlo, ma non lo dico, della CGIL. Allora, io potrei ricordare, diciamo, che la no, Camusso... No, non lo possiamo ricordare perché abbiamo finito. La Camusso rappresenta un potere forte, secondo lei? La Camusso, diciamo, io potrei dire, non lo farò, che la Camusso è eletta con tessere, diciamo, false o che quella ma piazza cosa, è stata riempita, diciamo, con Pullman pagati. Non lo farò, ragazzi. Non lo farò. Perrino, tra l'altro, il conduttore la stava sfumando, quindi si stava... Lei c'aveva la bomba atomica. No, dobbiamo... dobbiamo chiudere i tempi sì, della TV. Poi considera che siamo arrivati a questo dico e non dico, no? Sì, sì, potrei dirlo. Che dice, ma... io non dirò che. Non dirò che, ma sto dicendo che. Che risponde alla Camusso che aveva detto non dirò che Renzi è espressione dei poteri forti. Sì, sì, sì. Sono queste politiche figlie dei talk show, hanno oramai imparato questa dialettica del dico non dico a fini di spettacolo, e la politica spettacolo, ma ci stanno dentro tutti, destra, sinistra, nessuno si può chiamare fuori. Lo stesso Landini è contagiato da questa spettacolarizzazione. Sì, per esempio Landini, scusa se ti interrompo, ieri ha detto non mi chiamano, non nell'audio che abbiamo sentito, ma poi ha detto non m'han chiamato di qui di là, per cui Renzi e il governo hanno dovuto comunicare l'orario e il numero degli sms intercorsi. Cioè, voglio dire, è tutto, voglio dire, ci sono parlati Renzi e Landini, gli ha mandato degli sms, però Landini poi diceva non mi hanno fatto più sapere niente. Sì, tutto... Landini, anche in questi pezzi che avete mandato in onda sembra di essere a Ballarò, insomma. Ma lì era arrabbiato, era appena successo, io questo sembra... Ma sì, però io dico anche lui deve un pochino abbassare la temperatura. Io mi ricordo l'AMA, i tempi del sindacato rigoroso, serio, queste scivolate non vanno bene. Landini sta concorrendo a creare un clima avvelenato. Geloni, insomma, la Picerno cosa ha sbagliato in questa... Una cosa su Landini, non sì. sono d'accordo, non sembra di stare a Ballarò, a me non sembrava di stare a Ballarò quando ho sentito Landini prima. Quello era un discorso drammatico fatto dentro la piazza in un momento di tensione, e Landini ieri, lo abbiamo anche visto, ha contribuito a cercare di portare a casa la giornata evitando situazioni più gravi, e quindi insomma ma per carità, io non voglio accusare Landini, che è una persona molto per bene, è un ex operaio, ha tutta la mia stima, dico che tutti devono stare tranquilli, si sa che quello è chiaro, però non è facile in alcuni, cioè in quel momento lì era successo da 5 minuti, si può capire, forse è l'unica cosa, insomma, però effettivamente poi dopo Landini sappiamo che ha in corso una partita politica, si parla di lui come del leader di questo schieramento di estrema sinistra, come si sarebbe detto una volta, che raccoglierebbe un pezzo di Partito Democratico, un pezzo di Selli, Civatiani, allora insomma tutti ci stanno dentro questa... Io vorrei sapere se la Geloni condivide soprattutto il basta cazzate Leopoldi. Io lo so che tu quando hai sentito Landini dire basta Leopolde o cazzate varie, Geloni ha avuto un sussulto di landinismo, ha stracciato la tessera del PD e si è iscritta alla FIOM alle 6:38, di la verità, no, dilla, diciamo che ce l'hai. In questo contesto trovo più appropriato lo slogan basta cazzate rispetto allo slogan potrei dirlo ma non lo dico, incontra di più la Picerno. Ma la Picerno, tra l'altro, la trasmissione era finita, sì. È proprio la doveva dire questa cosa che è deflagrata sui giornali. Oggi Susanna Camusso dice non replico, ovviamente, però valuteremo se vedi che sono sempre minuetti tra di loro, parliamo di cose serie, sì. Parliamo degli operai, quelli che veramente infatti la Camusso non ha replicato, appunto, ha detto proprio quello che sta dicendo il direttore, cioè pensate se voi, se in una giornata così io mi metto a polemizzare con una dichiarazione fatta in un posto. Sì, il dato di fatto, esatto, che qua poi ci si scorda, come scrive Repubblica oggi, che sono 160 tavoli aperti al Ministero dello Sviluppo Economico, 155.000 lavoratori che rischiano il posto di lavoro per aziende che sono in crisi e rischiano di chiudere. Cioè poi questa è la questione sociale vera, che se ci ritroviamo, speriamo di no, 155.000 oltre a quelli che hanno già perso un posto di lavoro, senza lavoro, questo sarà il problema. Allora sentite la Camusso che è andata anche in ospedale a trovare le persone, alcune persone ferite. Un grande abbraccio e solidarietà ai lavoratori della Terni e ai dirigenti sindacali che sono stati caricati dalla polizia, vabbè, l'abbraccio a loro. E allora andiamo a sentire ancora Landini che poi, quando si è un po' più tranquillizzata la situazione, dice ci ha caricato la polizia. Attenzione, perché la questura dice ma quali cariche, li abbiamo contenuti. Quello che è successo ai lavoratori di Terni nella piazza, quando abbiamo deciso di venire sotto qui, siamo stati caricati e menati dalla polizia. E ci sono dei lavoratori che sono in ospedale e dei sindacalisti che sono feriti e si stanno curando. E vabbè, questo è quello che è successo ieri. Noi andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi rientriamo, siamo con Chiara Geloni e con Angelo Perrino, direttore di Affari Italiani, tra poco. A Milan, io voglio sentire il traffico. 24 mattino. Ciao Milan, sono un arbitro della Serie A. Vi volevo dire che la Juve non è che ruba, è che già se l'è comprata lì il campionato. Scusami, ma non possiamo farlo vincere al Milan. Alle mamme diamo un lavoro, non 80 euro al mese, un lavoro. Alessandro Milan, l'uomo per cui la rassegna stampa non aveva alcun segreto. In Matrix, nel film, c'era Morfeo che quando non sapeva cosa fare andava dall'oracolo e gli diceva tutto. Ma Renzi, quando non sa cosa fare, da chi va? Per me va da Alessandro Milan, è lui l'oracolo dell'informazione, è lui che illumina sul nostro futuro, giusto? Ciao Milan! Renzi, Pavone, Gonfio e Boria, è rimasto lui l'unico despota. Almeno Mussolini si sapeva che era un dittatore. Questo è un dittatore in incognito. Alessandro Milan, sono di Teramo, sei proprio un artista la mattina a presentare il tuo programma. A me non me ne frega niente di che cosa ha detto Napolitano ai magistrati. A me interessa soltanto che cosa si dicono in segreto Alessandro Milan e Rossella Brescia. ma niente vi dico in segreto con Rossella Brescia, ma magari, tra l'altro, io sto facendo questa campagna Free Rossella Brescia, non ce la vogliono sganciare manco una mattinata da RDS. Chiara Geloni, di qualcosa a te, ma è possibile, siccome è in onda adesso su RDS, però ho scritto anche al proprietario di RDS Montefusco, per favore imploro, per un giorno ce la mandi qui al Parlamento. Niente, non mi ha neanche risposto. Ma manda, offri qualcosa in cambio, cioè scambia, no? Ma che ho da offrire io a Rossella Brescia? Abbi pazienza. Ma no, al direttore, non al proprietario, a Montefusco. Una bottiglia di vino, ma 50 bottiglie di vino pregiato, 2000 bottiglie di vino pregiato. Il corto con le case, gli alberghi, non so qualcosa. No, vabbè, compriamo la disponibilità di Rossella Brescia a stare qui mezz'ora, una volta, ma niente, Perrino non ce la lasciano, dicono, come dire, no, non dicono, cioè non mi rispondono. Niente, proprio ti ignorano. No, mi ignorano, e quindi vuoi unirti, Perrino, alla campagna Free Rossella Brescia? Sì, mi associo assolutamente, sono con te, non posso che aderire, come avrebbe detto Landini. Va bene, insomma, anche Landini vuole Rossella Brescia. Faccio un volo pindarico al Parlamento una volta. Amici di RDS, mettetemi una mano sulla coscienza. Sulla coscienza e fate qualcosa, fate felice un bambino di 43 anni. Allora, Lino, posso sì. Tornare un attimo sulla questione di piazza? Come no? La colpa, diciamo, cerchiamo le colpe. Intanto Alfano non c'è mai, il ministro dell'interno era a Palermo nei giorni, nei momenti. Beh, quelle sono sfighe che capitano. E questo paghiamo il fatto che un ministro dell'interno è anche il leader di un partito politico e al Viminale dicono che non c'è mai. Forse questo è un tema da affrontare. Due, la causa di tutto sta in una decisione dell'antitrust europeo. Si sa che ThyssenKrupp voleva vendere lo stabilimento in questione e l'aveva ceduto al gruppo Outokumpu di finlandesi che sono leader, e l'antitrust ha detto di no, ha detto che sarebbe andata a costituire una posizione dominante e dunque lo stabilimento di Terni è tornato a ThyssenKrupp, quindi in sostanza questi operai vanno avanti e indietro e diventano finlandesi piuttosto che a seconda di questi regolamenti europei. Chiaro che poi ci sono anche le trattative, la verità è che la cosa più importante è salvare i posti di lavoro, però poi dopo io non lo so come andrà a finire questa vicenda. Intanto io però vi voglio raccontare dai giornali, il Corriere della Sera racconta, è solo il Corriere, c'ha questa notizia in prima pagina, che c'è Giulio Tremonti indagato, Geloni. No, vabbè. L'ipotesi è corruzione, quando era ministro dell'economia avrebbe preso una maxi tangente da Finmeccanica attraverso una fattura di 2.400.000 euro allo studio di dove lui prestava lavoro come tributarista. Ovviamente si difenderà Tremonti, insomma, indagato per corruzione. Speriamo che non sia vero, perché queste cose sarebbe sempre meglio se non fossero vere. Questo è ovvio, insomma, è ovvio, scontato. Si spera che la corruzione non ci sia, d'altronde non c'è neanche in Italia molta. Ma io vorrei farvi sentire Brunetta. Allora io devo dire, Brunetta sempre, voglio dire, quando fa le sue dichiarazioni suscita, io devo dire, io lo inviterei, fosse un conduttore lo inviterei tutti i giorni Brunetta, perché ti regala sempre qualcosa. Certo, io non lo sapevo, tu lo sapevi Geloni che Floris ha lavorato all'Avanti? Floris. Mai saputo. Sì, l'ho visto, ma non lo sapevo. Vabbè, sentite un po' quando Brunetta, un po' piccato da una domanda di Floris, risponde così, Perché ha preso il potere, ha scalato il PD, ha scalato con 1 milione di voti, Renzi, in più questo, il Partito Democratico, con un colpo di Stato è diventato Presidente del Consiglio. Beh, come Craxi ai suoi tempi. No, lei che era socialista e lavorava all'Avanti, ed era socialista, e questa battuta Craxi non ha mai fatto nessun colpo di Stato. Beh, no, colpo di Stato, però all'Ergife quello era un partito. E pagava magari anche il suo stipendio all'Avanti. Vorrei capire allora, il concetto di democrazia di Brunetta, se c'era spento dal 94. Però può essere che con me non ci va molto lontano. Aveva spento l'interruzione. Con me lei non ci va, Perrino, con lei non ci va molto lontano con me. Brunetta è uno spettacolo. Io ho avuto anch'io dei vis-à-vis qui al telefono. Una volta mi stava buttando giù il telefono. Ma lei non c'è, non faccia una domanda così, con questo tono. È incontenibile. Devo anche dire che di quelli che parlano e scrivono tanto è uno dei più seri, è uno che io ascolto perché dà valore aggiunto. Bruno. No, ma assolutamente concordo. Poi peraltro non c'è nessuna colpa a lavorare all'Avanti. Però è il tono, c'è, cioè, come dire, Brunetta, io so chi sei tu. La battutina su Craxi, ti pagava lo stipendio, Craxi. Come dice De Rita, mi disse in un'intervista di tanti anni fa, dice: ma sai Perrino, qui che nuovo e vecchio, qui ci conosciamo tutti, siamo tutti figli dello stesso mondo, tutti hanno lo scheletrino da tirare fuori, questo è un po' il momento che viviamo, sì. È un po' questo, va bene, io devo chiudere. Allora Chiara, quando è che diventi direttrice dell'Unità ufficialmente, cioè quando è che ti insedi? Ma stiamo trattando, adesso non sappiamo ancora se è Unità o Rackham, però una delle due testate dovrebbe essere. Perché l'ultima volta non ti sei arrabbiata che ti ho salutato dicendo la neo direttrice sarà di Rackham, dell'Unità. Sai Perrino che il nuovo editore... Ma no, perché io preferirei Rackham in realtà. Il nuovo direttore dell'Unità. Mi sono perso qualche passaggio, questa notizia che la collega Geloni va no, ma no, ma è chiaro che io sto spingendo. Perché io ho letto di Maria Teresa Meli, mi confermate? Ma io non confermo nulla, io punto alla Geloni, perché è sempre meglio avere un'amica direttrice, capisci? Certo. Quindi io punto per no, Chiara. Però Geloni, vedi, tu stai attento perché dici queste cose in radio, poi ci credono. E vedi, Perrino era già pronto lì a chiamare con un cellulare segreto la redazione, guarda che non è la Meli, è la Geloni. Notizia. No, non lo so, io non so, spero la Geloni, e non sapevo neanche di Maria Teresa Meli, che è al Corriere della Sera in questo momento, è la retroscenista ufficiale di Renzi. Che con la Geloni si sono beccate. Posso dire che il retroscenista ufficiale di Renzi è bellissimo. Ma no, perché c'è retroscena, mica è un'offesa, tutti i giorni c'è retroscena sul Corriere firmato da Maria Teresa Meli. Vabbè, ma vi devo salutare, ecco, mi sono inguaiato, adesso non avrò più una collaborazione con l'Unità. Va bene, grazie, alla prossima.

e un'ottantina di non soldati di truppa, ma sono ufficiali, sottufficiali, sono andati nei mesi scorsi in Iberia, sì, per contribuire a questioni logistiche atte alla costruzione di ospedali, di ambulatori, insomma di servizi per quelle disgraziate popolazioni africane dove ahimè c'è il virus. E ora rientrano e poi non ci saranno altre partenze da qui. E ovviamente mi sono posto da subito il problema, ma queste persone tornano da paesi, sì, in cui c'è l'infezione del virus, che trattamento avranno qui? E avevo da subito chiesto alle autorità militari americane, ma soprattutto al nostro governo, che è il mio interlocutore, di adottare dei protocolli rigidi di controllo, perché mi è stato detto che il virus Ebola non si trasmette per via finché aerea, non è e poi non si trasmette finché non è manifesto. Non si trasmette finché non è manifesto, questo, sì, è molto importante, perché vuol dire che non possono esistere portatori infettivi sani. Questo però, sì, però è chiaro, a chi diceva perché sono arrivati in Italia, che risponde? Sono sul suolo italiano. Anche sono arrivati in Italia perché la loro base, sono soldati di stanza qui. E la squadra Africom, che ha sede a Vicenza, e quindi rientrano nella loro sede. Comunque, in ogni caso, queste persone che sono rientrate o che stanno rientrando sono tutte sane, asintomatiche, senza nessun disturbo, però entrano in una specie di quarantena, chiamiamola quarantena, anche se durerà solo 21 giorni, sì, tanto è il tempo dell'incubazione scientificamente provata, e sì, dopo questi giorni saranno assolutamente, diciamo, dichiarati non infetti. Sono monitorati due volte al giorno con visite mediche specifiche, insomma sono assolutamente sotto controllo. Lei è d'accordo quando il ministro della salute Lorenzin ieri ha fatto sapere che nella malaugurata ipotesi ci fosse un contagio, ci fosse una manifesta invece infezione, queste persone non debbano essere curate dall'Italia e non verranno curati in ospedali vicentini, ma verranno trasportati negli Stati Uniti. Ma infatti è proprio così, questo prevede il protocollo internazionale, che ovviamente non ho fatto io, e in quel caso verranno portati negli Stati Uniti. Però veda, questa massima precauzione che ho chiesto e ottenuto deriva anche dal fatto che se uno a un certo punto dovesse manifestare qualche linea di febbre, non è detto che sia una febbre dovuta ad Ebola, ma potrebbe essere una banale influenza, un banale raffreddamento, no? Solo che si scatenare, se questi militari avessero potuto girare liberamente per la città, questo avrebbe scatenato panico, preoccupazione. Ma questo credo a tutela degli stessi militari americani, non sono stupidi, insomma, sanno che devono preservarsi. Intanto, sindaco, le vorrei presentare un imprenditore, si chiama Stefano Provasi, titolare della Tecnoline SRL, che ha sede. Provasi, buongiorno. Buongiorno. Ha sede dove? Buongiorno. In provincia di Modena, esattamente? Buongiorno anche a tutti i radioascoltatori. Ha sede in provincia di Modena, precisamente a Concordia sulla Secchia, dove tutti sanno era il cratere del terremoto del 2012. È infatti un'azienda che è stata in gran parte distrutta da quel terremoto. 7 mesi dopo il disastro, ho letto di recente sulla stampa, era già risorta dal punto di vista architettonico, e ora siete all'avanguardia mondiale, possiamo dire, perché avete costruito una super tenda molto tecnologica per trasportare i malati di Ebola in condizioni di estrema sicurezza. È così? Allora, faccio una precisazione. Questa tenda erano già 20 anni in dotazione all'aeronautica militare a pratica di mare, che praticamente loro avevano iniziato 20 anni fa un protocollo di recupero con questo sistema particolare. Poi dopo, nel 2012, fu commissionato l'AMP Engineering di 2 ville lì a Vicenza, che fanno forniture per i vari eserciti europei nel mondo, gli hanno commissionato lo sviluppo e il perfezionamento di questo dispositivo. E in poche parole, noi nel 2012, prima del terremoto, abbiamo cominciato lo sviluppo e il miglioramento di questo dispositivo, sì. E poi purtroppo è venuto il terremoto e di conseguenza ha frenato un po' tutto, esatto, certo, però non ha frenato del tutto. Ma è vero, cioè, voi avete anche come clienti, quindi, gli americani, tra l'altro appunto avete una partnership con un'azienda vicentina. Sì, l'OMP Engineering, diciamo che ha dei collegamenti anche con l'ONU e varie fasce di aeronautica, insomma. Questo dispositivo non è l'unico al mondo, ma è uno dei più complessi e più sicuri, diciamo, attualmente in fabbricazione. Questo è anche perché è stato fatto in collaborazione con l'aeronautica militare, con il suo staff di ingegneri, perché questo ha bisogno di una certificazione al volo, e loro hanno permesso, diciamo, questo studio particolare per... Sì, ricordiamo, è una tenda, diciamo, fatta tutta con materiale particolare, con dei bracci che entrano nella tenda, con dei guanti, in modo da trattare in completo isolamento le persone, esatto, da trasportare. Per fare capire un po' ai radioascoltatori, è una sorta di incubatrice, tutti hanno visto un'incubatrice che dall'esterno si può entrare con delle maniche sempre in totale sicurezza, per, diciamo, assistere a questo paziente che eventualmente può avere delle fosse convulsioni. Malato di Ebola. Senta, la ringrazio, Provasi. Sindaco Variati, ma è vero che anche alla base di Aviano ci sono dei militari in quarantena? Questo almeno leggevo sul Messaggero Veneto. Non mi risulta. Non mi risulta. Pare che il Messaggero Veneto fosse utilizzato Aviano come aeroporto di atterraggio, ecco. Sì. No, non ho questa informazione. Non risulta questo. Tenga presente però che sì, ci sono scatenate anche qualche polemica, qualcuno anche la utilizza da un punto di vista politico, cioè, tutto si butta in politica. E vabbè, si riferisce, insomma, a Zaia, forse? Beh, insomma, sì, perché bisognerebbe stare attenti quando si parla, voglio dire, ma capisco, lui è in campagna elettorale ed è tutto quel che serve per andare sui giornali, è buono. Però non dobbiamo dimenticarci che se non c'è qualcuno, siano militari, siano medici, siano laici, siano religiosi, che in qualche modo vanno lì ad aiutare quelle popolazioni, a creare una specie di cordone sanitario per limitare il focus, la situazione è peggiore, dell'epidemia, chiaro. Attenzione, perché nel giro di qualche mese quell'epidemia arriva inesorabilmente in Italia. E in questo momento i militari, non solo quelli che stanno in Africa, che sono ipercontrollati due volte al giorno, ma ovviamente questi che addirittura finiscono in quarantena, qui i controlli sono assoluti. E la situazione dei nostri aeroporti, dei nostri porti, la situazione può essere un pochino più pericolosa. No, ma è ovvio, allora, che la situazione va controllata lì. No, altrimenti... mi sento anche così di ringraziare, da cittadino italiano, chi in Africa in questo momento, magari anche per delle valutazioni politiche internazionali, vabbè, però intanto sta aiutando quelle popolazioni che da sole non ce la fanno. Non ce la possono fare. Per concludere, sindaco, vi faccio fare una domanda, visto che lei è stato ieri da Renzi come sindaco, tra una delegazione di rappresentanti di sindaci per l'ANCI. Oggi abbiamo letto che arriverà forse la tassa unica, però i sindaci si lamentano per i tagli che sono stati dal governo centrale. Questa legge di stabilità come la giudica? Da 0 a 10 che voto gli darebbe da sindaco? Faccio fatica a dare il voto perché capisco il grande sforzo della diminuzione del costo del lavoro, insomma, in particolare l'abbattimento parziale delle tasse, eccetera, che tanto implicano sulle nostre esportazioni. Però vi hanno tagliato un po'. Però ma c'è un problema però sui comuni. Mentre secondo me nell'ambito dei ministeri c'è ancora grasso che cola, e che quindi alcune operazioni di dimagrimento obbligato possono essere persino utili e sane. Attenzione, perché nella stragrande maggioranza dei comuni, dopo i tagli degli ultimi 3-4 anni, c'è il rischio concreto che gli ulteriori tagli obblighino i sindaci, anche i più virtuosi, a rivedere la spesa sociale. Gliel'ha detto così a Renzi? La spesa verso i più poveri. Ma gliel'ha detto a Renzi che del PD... Gliel'ho proprio detto, dico attenzione, perché non potrebbe, sarebbe un disastro per la politica se a pagare le conseguenze della crisi, del rigore, fossero i più poveri. E lui che le ha detto? Lui che è il premier sindaco? Lui, il premier è consapevole che non può fare questo errore, però insomma vuol vedere numeri, vuol fare confronti tecnici. Io lo capisco perché lui ha una massima responsabilità anche nei confronti dell'Europa, ma proprio per questo ci sarà già a partire da venerdì un incontro tecnico tra ANCI e MEF, perché secondo noi i conti del MEF non coincidono con i conti reali che abbiamo in mano noi. Ma certo, però quindi, usare l'espressione grasso che cola proprio davanti a Renzi, che l'ha usata varie volte. Giustamente. Ma il dialogo è stato caro Matteo, caro Achille, ci conosciamo da diversi anni. Intanto però, sindaco, la ringrazio. Si devono dire chiare anche agli amici. Intanto la ringrazio. Sindaco di Vicenza, Achille Variate, così ringrazio Stefano Provasi, titolare della Tecnoline SRL, che appunto ha messo a punto questo sistema, questa tenda molto tecnologica per trasportare i malati di Ebola. Dopo la pubblicità avremo anche qualche battuta con Luca Zaia, governatore del Veneto, che invece dice gli americani dovrebbero andarsene a casa loro a essere curati, e poi avremo il viceministro Bubbico sugli scontri ieri in piazza. State con noi 24 mattino. Allora, ieri sulle colonne di Repubblica, al grido di se foste malati, premessa, andate a curarvi a casa vostra, cari americani, cari amici americani, Luca Zaia, che è con noi ai microfoni, buongiorno, presidente della Regione Veneto, ha detto la sua sull'Ebola. Zaia, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno e buon lavoro a tutti. Senta, prima il sindaco Variati ha detto qualcuno, e riferito anche a lei, parla per motivi elettorali, oppure ne vuol fare una questione sempre di propaganda elettorale, ma è tranquillo dopo che il ministro Lorenzin ha detto in caso di malattia andranno in America? Beh, guardi, innanzitutto non si tratta di campagna elettorale, ma una cosa seria, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità non più tardi dei primi di agosto ci ha detto che l'Ebola ha un'incubazione dei 2 ai 21 giorni e poi se si guarisce il virus resta per altri 28 giorni nel corpo della persona che si è ammalata. Per cui io penso che sia logico che un presidente di regione, a me sembra quasi un'ovvietà, che si occupa della salute dei suoi cittadini, perché è previsto per legge che io mi occupo della salute dei veneti, dica che sembra ovvio che la quarantena, anche se l'ha inventata la Repubblica Veneta la quarantena, ognuno se la va a fare a casa sua. Glielo dice un amico degli Stati Uniti, sì. Glielo dice l'unico amministratore che è andato all'inaugurazione della base ad Almolin di Vicenza. Perché poi tutti quelli che parlano non si sono presentati quel giorno. Cioè lei avrebbe preferito comunque che andassero direttamente negli Stati Uniti invece che fare... Ma... Però loro sono di stanza qui nelle basi vicentine e quindi tornano sì, a casa, ecco, nella loro casa. Ma per carità, ma stiamo parlando di un virus che dà origine a una pandemia, è già epidemia in alcuni paesi, questi militari provengono dalla Liberia, prova ne sia che oggi... che i prossimi militari che ci dicono che arriveranno, mi sembra di aver capito altri 38 giù di lì, scaleranno e arriveranno a Aviano, guarda caso, ma soprattutto vorrei ricordare che mi si dice che il centro medico USA per l'Europa è la Germania, quindi altro tema, se tu devi fare le quarantene, guarda, noi ci auguriamo che non ci sia nessun problema perché per noi sono amici gli americani, tant'è vero che io ho difeso la presenza della base e delle basi da noi, però è altrettanto vero che se ci dovesse essere minimamente un rischio, peggio ancora una persona che risultasse positiva nei 40 giorni, ne verrebbe fuori che comunque il bollino rosso ce l'ha il Veneto, sì. Che comunque dovremmo far scattare tutte le modalità di emergenza. Però andrebbero in America, cioè, ha sentito il ministro Lorenzin a dire, se dovesse succedere vanno su un aereo e vanno in America. Ma guardi, io vengo da una laurea scientifica. Nel momento in cui dovesse succedere, vuol dire che il virus va a conclamare la malattia, cioè si vedono i sintomi, cioè ci accorgiamo che c'è la febbre, che ci sono le perdite ematiche e accade che tu dici è Ebola perché fai... A quel punto vuol dire che noi abbiamo un malato di Ebola a Vicenza che porteremo in America. Secondo lei, da un punto di vista di emergenza, cosa accadrà? Accadrà che avremo un cordone sanitario sulla base, su Vicenza, sì. Dappertutto. Cioè, non è che ci vuole un premio Nobel della medicina per capire sta roba. Però insomma, verrà trasportato in sicurezza, a parte che stiamo parlando di ipotesi che speriamo. Ma guardi, noi ci auguriamo che queste siano solo elucubrazioni di gente che si preoccupa un po' troppo, mettiamola così. Però a me sembra, le ripeto, ovvio che, visto e considerato che quei militari si sono imbarcati in Liberia, quando tu parti in volo, cioè, non capisco per quale motivo, visto che consideri che c'è necessità di quarantena, me li porti in Veneto. Comunque l'idea, lei dice, sono amici gli americani, stavolta però hanno sbagliato, dovevano andare perlomeno in Germania, dove c'è il centro europeo. Senta, un'altra questione invece. Ma posso, mi scusi, posso ribaltarle la domanda? So che non si dovrebbe fare. Secondo lei, o meglio ancora, secondo chi ci sta ascoltando, sarebbe accaduta la stessa cosa in Germania? Ah, dice che noi siamo stati deboli nei confronti, come voce. Ma noi manca la spina dorsale, cioè noi non abbiamo la schiena diritta. Cioè, lei avrebbe auspicato, che so, qualcuno del governo a dire: cari americani, andatevene pure in Germania invece di venire. Ma guardi che non è una questione di trattare male, perché ripeto, glielo dice uno che si sente super amico degli americani, però non basta cantare l'inno d'Italia sventolare il tricolore. Cioè, quando sei in azione lo dimostri con queste cose, e qui si doveva discutere. Cioè, io ho trovato strano che nessuno si sia indignato per questa cosa. Mi dica anche perché dovremmo chiudere le frontiere. Questa appare un pochino, come dire, un bel assist da leghista a dire: beh, vista questa situazione, approfittiamo e chiudiamo le frontiere, così non arriva più nessuno. Ma guardi, innanzitutto c'è un comportamento e un atteggiamento assolutamente paritetico da parte mia. Se poniamo una questione, e le ho detto prima i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sui profughi, ovvero sulla non certezza totale che possa arrivare qualcuno con il virus in corpo, la poniamo anche sugli americani che non sono dei profughi, e fin qua ci siamo. Quanto alle regole di igiene, di polizia riferita all'igiene pubblica, io non ci vedo nulla di trascendentale. Sembrerà magari anche stupido qualcuno dire: chiudiamo le frontiere, magari come hanno fatto gli australiani, che non sembrano degli idioti venuti da Marte, no? Ovvio che se non accade nulla, se si liquiderà tutto con un sorriso. Però un paese, uno Stato, ha l'obbligo di difendere da un punto di vista sanitario la sua popolazione. Adesso forse io mi preoccupo un po' troppo, perché queste robe le ho studiate, anzi mi è toccato anche studiarle approfonditamente, perché l'esame era anche duro rispetto ai virus. Però le dico anche che a me sembra che non è che basta fare dichiarazioni e comunicati stampa. Noi sappiamo che se il virus ci arriva, noi dovremmo cambiare tutto il nostro modo di vivere in Italia. Vale la pena di farlo? Vale la pena di mettere a rischio la vita delle persone? Ma mi tocca una curiosità, ma che università ha fatto per aver studiato i virus? Cioè, che esame è? Cos'è? Ma guardi, io mi sono laureato in scienze della produzione animale e ho fatto gli esami fondamentali a veterinaria, per cui c'è la parte legata a questo. Mi faccia fare un'ultima domanda nel ringraziarla. Sì. La questione della rivolta fiscale, perché due giorni fa o tre giorni fa qui Matteo Salvini ha annunciato, la proporrò a Maroni, la rivolta fiscale. Anche con lei ne abbiamo parlato in passato, anche il Veneto è pronto a farla. Ma guardi, noi avremo la volontà di lavorare, di star tranquilli, di non avere l'ufficio complicazioni e affari semplici, di pensare che comunque la vita possa essere sempre con il sole, cioè una vita con le persone che sorridono. Però poi quando ti trovi una pressione fiscale totale di balzelli, di pressione fiscale e altre robe, del 68,5%, ti arrabbi un po'. No, non ce la fai più. Noi abbiamo 600.000 partite IVA, cosa vado a dire a quegli imprenditori? Ma quindi è pronto a farla o no questa rivolta fiscale? Guarda, io l'ho annunciata con i tagli che avevano assolutamente preventivato un mese e mezzo fa, e ho visto che li hanno tolti. Dico che noi non siamo disposti, siamo disposti sicuramente ad affrontare il tema se questo taglio verrà confermato, e soprattutto se ci toccherà tagliare nella sanità, perché non può passare l'idea che una regione virtuosa come la mia sia trattata come la Sicilia, che ha 22.000 forestali contro i 400 che è il Veneto. Sono vicende che vedremo in corso d'opera. Intanto la ringrazio, Zaia, grazie per essere stato con noi, governatore del Veneto. E dopo il traffico parliamo della vicenda avvenuta a Roma. Con noi c'è il vice ministro all'interno, Filippo Bubbico, che già saluto. Buongiorno vice ministro, e grazie per essere qui con noi. Le chiedo un attimo di pazienza, ci sono informazioni sul traffico e poi insomma abbiamo un po' di domande per capire cosa è successo ieri in piazza a Roma. 24 mattino. Le dobbiamo prendere anche le le botte, noi che paghiamo, noi che lavoriamo, dobbiamo essere anche picchiati da chi? Da altre persone che per vivere debbono lavorare? Ma che diano gli ordini di colpire quello che c'è da colpire? Cazzo, in un paese di ladri, di gente che evade, di corruzione, se la vengono a prendere con gli unici onesti, ma dove cazzo siamo messi? Allora, vice ministro Bubbi, con la voce che avrà sicuramente riconosciuto, avrà visto, è quella di Maurizio Landini, molto arrabbiato, proprio nei minuti immediati. Prima di capire qualche domanda di quello che è successo, lei capisce un po' Landini questa rabbia quando dice prendetevela con i corrotti, i ladri, invece che con dei lavoratori? Beh, intanto bisogna dire che Landini diceva queste cose in una fase di totale concitazione che è molto comprensibile, perché come ha riferito negli incontri che abbiamo tenuto successivamente, non si erano mai verificate queste situazioni, sulle quali noi vogliamo compiere ogni utile approfondimento. Ma credo che bisogna collocare la questione nelle sue dinamiche, perché il presidio di lavoratori di Terni sotto l'ambasciata, il consolato tedesco, sì, era teso a sollecitare l'attenzione della proprietà sul futuro di quell'azienda. Il governo, il nostro governo, il Ministero dello Sviluppo Economico, la Ministro Guidi, il Vice Ministro De Vincenti seguono quotidianamente, e gli stessi sindacati hanno dato atto di quanto importanti siano gli sforzi che si stanno facendo. Mentre i lavoratori erano lì, è arrivata una risposta che non era ovviamente quella attesa, sì, e che è stata vissuta sostanzialmente come una provocazione, e gli animi si sono scaldati un po'. Però, Vice Ministro, lei definirebbe una carica, oppure, come dice la questura, un contenimento? Cioè, la sua impressione al di là delle responsabilità? La mia impressione è che non si sia trattato di una carica, come abbiamo avuto la possibilità di osservare nel corso della giornata di ieri. Non c'era un ordine in quel senso. Piazza Indipendenza è molto vicina alla stazione Termini, sì, e quindi si sarà generato qualche equivoco rispetto alla volontà che i lavoratori avevano manifestato di volerlo raggiungere. No, raggiungere, questo, perché i lavoratori hanno escluso questa cosa. Questo è stato smentito da Landini e dagli altri rappresentanti sindacali, perché non bisogna mai dimenticare che lì erano presenti tutte le sigle sindacali e tutti i leader sindacali della categoria dei metalmeccanici. Loro hanno smentito che avessero quella intenzione, e io penso che non ci siano elementi per mettere in dubbio quella loro affermazione. E allora come mai? Però stavo dicendo, Piazza Indipendenza è molto vicina alla stazione Termini, e la stazione Termini è una infrastruttura strategica che deve essere presidiata, e quindi è accaduto qualcosa, si sarà verificata una qualche incomprensione, sì, sulle volontà dei lavoratori. E lei dice che in quella situazione di tensione la scintilla può partire in un attimo. Perché non era previsto che si recassero allo sviluppo economico, quindi non c'era una comunicazione ritualmente formalizzata di un corteo che avrebbe portato quei lavoratori da Piazza Indipendenza via Veneto. Però le chiedo Vice Ministro Bubbico, non c'è il timore che ho letto già dai giornali, e pare essere anche quello di Renzi, di apparire proprio in questo momento difficile come un governo che, uso brutalmente, manganella gli operai? Ma guardi, io penso che i leader sindacali si siano resi conto nel corso dell'incontro che abbiamo tenuto nella serata al Viminale che non c'è assolutamente questa volontà, e abbiamo condiviso insieme la preoccupazione circa la tenuta dell'ordine pubblico e la garanzia delle libertà democratiche, delle libertà di manifestare, che noi abbiamo voluto con forza riconfermare e abbiamo condiviso anche la comune volontà di diciamo rafforzare gli strumenti di comunicazione, perché fenomeni, diciamo episodi come quello di ieri non abbiano più a verificare. Le chiedo, Vice Ministro, ci sarà responsabilità da accertare? Oggi il Ministro Alfano riferirà alle Camere. Secondo lei c'è stato qualcosa nella catena di comando delle forze dell'ordine che non ha funzionato e qualcuno che pagherà? Ma guardi, io posso dire che i sindacati, i leader sindacali non hanno posto un problema di questo genere. Loro lo hanno detto in maniera molto esplicita e molto diretta. Il problema che siamo venuti a porre non è quello di agire contro persone che sappiamo sono esposte a rischi e che lavorano in condizioni anche di precarietà. L'obiettivo era quello di chiarire quello che è accaduto, ed è il lavoro che noi stiamo facendo, di confermare una volontà politica, ed è quello che ieri sera abbiamo confermato circa l'impegno a garantire nel rispetto delle regole tutte le manifestazioni, e al tempo stesso impegnarci tutti ad evitare che possano verificarsi situazioni difficili in un momento che obiettivamente è carico di tensione. Questo certamente. Il segretario della CGIL Camusso al Fatto Quotidiano dichiara quando succedono queste cose c'è sempre un ordine. Lei invece ci dice non c'è stato nessun ordine nei confronti delle forze dell'ordine. Però in conclusione, Vice Ministro, si sente di poter dire che le forze dell'ordine hanno operato bene ieri? E quindi... Guardi, quando si sta su un campo e si svolgono attività operative, le procedure servono, ma poi sono le dinamiche reali che possono segnalare comportamenti di natura diversa. Quando c'è tensione, c'è tensione per tutti. Io mi sento di dire che non c'era alcuna volontà determinata a creare situazioni di conflitto. È successo, può succedere nei momenti di tensione. Ripeto, l'incontro di ieri sera ci restituisce un quadro di assoluta condivisione e di impegno nel riconoscere appunto che l'episodio va circoscritto, va esaminato, ma al tempo stesso non va enfatizzato, non va strumentalizzato, non è utile a nessuno. E non va, come dice lei, anche riprodotto, e questa è la speranza ovviamente, che non ci sia più, che sia un episodio rimasto isolato. La ringrazio, grazie al Vice Ministro dell'Interno Filippo Bubbico per essere stato con noi. Ci fermiamo qui con il Vice Ministro Bubbico, e voglio ringraziare Lorenzo Nespoli in redazione insieme ad Alessandro Longoni e a Anita Panizza, e poi il nostro alpino Peter Bescapè in regia. L'appuntamento è domani, è rinnovato. Sono anche su Twitter, Alino Milan, se volete, e domani alle 6.30 siamo qui. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 mattino.